Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti i radioascoltatori. Ebbene, nell'avvicinarsi del Natale e delle feste, questa trasmissione non poteva non parlare del panettone, visto che ne abbiamo parlato in agosto. Abbiamo lanciato una grande iniziativa che ha preso davvero piede ed si è diffusa un po' in tutta Italia, del panettone ad agosto, non solo, ma panettone a tutto l'anno. E credo che il prossimo agosto addirittura le manifestazioni, diciamo le feste attorno al panettone, si moltiplicheranno. E quindi oggi più che mai dobbiamo parlare di questo argomento. E allora, numero verde, cari radioascoltatori, magari fateci sapere i vostri preferiti, i vostri pasticceri preferiti, le vostre idee sul panettone, o magari su altre aree d'Italia, territori d'Italia dove il panettone non è di casa, se c'è un altro dolce così forte che sta prendendo piede o che è tradizionale. Quindi fatecelo sapere. Numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349-238-6666. Come annunciato prima, tra l'altro fra poco ci collegheremo anche con il ministro delle politiche agricole Luca Zaia, magari per fare un discorso sui prodotti made in Italy e durante le feste, anche perché il ministro ha così lanciato questa provocazione di lasciar perdere l'ananas e di consumare dei prodotti nazionali. Quindi ne discuteremo assieme a lui. Allora cominciamo a parlare di panettone e devo dire che il primo ospite che abbiamo con noi è un pasticcere ormai di antica fama, che si chiama Teresa Busnelli di Arluno. E allora perché chiamo subito Teresa Busnelli di Arluno? Perché proprio l'anno scorso, e più volte che lo abbiamo sentito, questo bravissimo pasticcere che fa un panettone davvero eccellente, fa pochissimi panettoni al giorno perché lui dice che sono necessarie 36 ore per ogni panettone, l'anno scorso e nel passato lui ha sempre detto che è sempre più difficile trovare dei prodotti italiani come le uvette di grande qualità. E allora io, a distanza magari di 12-15 mesi, di 2 anni, voglio richiedere a lui se appunto se il made in Italy dell'uvetta è rifiorito e se si possono trovare delle uvette made in Italy valide per poter fare il panettone. Buongiorno Teresio. Buongiorno dottore. Allora, le ha trovate le uvette italiane? No, non ancora. Non ancora. Ho preso quello di Pantelleria, però c'è tutto quel nocciolino dentro che non va bene. E quindi da dove arrivano le sue uvette? Arriva dall'Australia. Quest'anno ho preso il moscato. Sempre australiano? Australiana, è solo questa ditta che fa l'uvetta di moscato. E allora facciamo un appello ai nostri viticoltori, ai nostri produttori, che riescano a produrre delle uvette di qualità per poter fare un panettone completamente made in Italy. Ma invece la frutta candita, questa è made in Italy? Sì, tutto in italiano, sì, tutta da Corado, lì in Sicilia. Senta, ma lei vede un decadimento delle qualità degli ingredienti italiani? Un po' sì. Anche delle farine? No, le farine no, le farine siamo i primi nel mondo. Siamo i primi nel mondo? Sì, ma anche degli aranci. Abbiamo delle qualità enormi, però sono gli artigiani che diventano pochi. Lei dice che c'è, quindi cambiano mestiere, cioè i giovani non vogliono più fare gli artigiani? È quello, dispiace molto. Ma la pasticceria è ancora un campo che attira? Sì, sì, sì. Sì. Senta, il panettone, c'è sempre interesse per il panettone? Interesse, già da ottobre abbiamo esaurito già la vendita. Ah, addirittura? Le prenotazioni, sì. Quindi diciamo che il panettone rimane sempre, per così dire, il numero uno, insomma, tra i prodotti natalizi? Sì, sì, è il dolce che ci invidia tutto il mondo, questo panettone. Senta, ma come mai il Pandoro non ha il successo del panettone? Forse perché è troppo grasso, forse. È troppo grasso, lei dice? Cioè, sì. Troppo burro? Troppo burro, sì. Ma lei fa anche il Pandoro, no? Sì, faccio anche il Pandoro, sì. Ma no, però ne vendo un quarto del panettone. Ecco, ma ci sono sistemi di produzione completamente diversi sulla lavorazione. Sì, è tutto diverso. Ma è più impegnativo il panettone o il panettone? Pandoro? Panettone più impegnativo. Ah, ecco, quindi sì. Perché ci sono meno ingredienti che vanno dentro, cioè, appesantisce meno questo lievito. Ecco, ma la durata di un panettone, ecco, vediamo la scadenza di un panettone dal momento della produzione, quanto dura, insomma? Sì, potrebbe durare 2 mesi, 3 mesi, però proprio perfetto sarebbe un mese. Ho capito. Di mangiarlo proprio al top. Bene. Naturale, dottore. Bene. Perché basta che io metto qualche coso chimico, dura anche 6 mesi. Ho capito. Ma lei usa la chimica? No, no, tutto naturale, perfino anche gli aromi, tutti naturali. Bene, Teresa, io le auguro buon Natale, buon panettone e a presto. Grazie. Sentiamo Giovanni da Verona, radioascoltatore. Buongiorno, Giovanni. Ah, buongiorno da Paolini. Ci siamo conosciuti 30 anni fa a Zeltre, comunque lo stesso. No, io volevo intervenire, no, perché io ho 60 anni e da quando sono nato ho sempre bevuto un bicchiere di vino mangiando, un bicchiere di vino rosso, e mi fa anche bene. Però volevo chiedere, adesso con le nuove normative del 0,2 sul tasso alcolico, io non posso più bere? Ma guardi, Giovanni, non solo lei non può più bere, credo che non possa più bere tutta Italia, nel senso che ormai con questo tasso alcolico, con questa nuova normativa che entrerà in vigore, io credo che sia molto sano e molto così consigliabile non bere più, perché basta bere un bicchiere e a questo punto si supera il tasso alcolico. Quindi io credo che alla sera ho bisogno di trovare un autista o qualcuno, o magari una compagna che non beve, oppure altrimenti addio vino. Bene, grazie. Sentiamo Daniele da Pescara. Buongiorno, Daniele. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, ieri sera ho prenotato dalla mia pasticceria preferita un panettone di quelli grandi, e leggendo sugli ingredienti che trovavo scritto lievito naturale. Sì. Lievito naturale si riferisce, si può riferire anche al lievito di birra oppure è tutt'altra cosa? No, se è lievito di birra dovrebbe essere indicato lievito di birra. Lievito naturale dovrebbe essere il lievito che si alleva direttamente un pasticcere, quindi credo che... Perché lei ha dei problemi sul lievito di birra? No, io non ho problemi, però era proprio una curiosità, perché so che questa pasticceria usa solo, diciamo, ingredienti migliori, diciamo così. Però sta dicitura lievito naturale, se potete intendere anche il lievito di birra. No, io credo che proprio lievito di birra. No, lievito di birra bisogna indicarlo come lievito di birra. Comunque magari sentiremo ora, abbiamo alcuni altri pasticceri che interverranno, chiederemo a loro, ma credo che assolutamente sia lievito naturale inteso di lievito naturale, cioè quello che praticamente si prepara direttamente in pasticceria l'artigiano. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di panettone, di Made in Italy, parliamo di prodotti appunto natalizi, e continuiamo ora a fare un po' un giro dell'Italia per scoprire anche i segreti del panettone. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, abbiamo con noi, mentre è molto divertente questo, mi continuano a arrivare SMS in cui ognuno, diciamo, esprime il proprio parere e dice qual è il suo panettone preferito, addirittura molti parlano del numero uno, magari poi alla fine della trasmissione, verso il finire, dirò anche quali sono, diciamo, le preferenze maggiori arrivate. Bene, abbiamo con noi Achille Zoia della Boutique del Dolce di Concorrezzo, che fa parte della prestigiosa Accademia dei Pasticceri. E buongiorno, Zoia. Buongiorno, dottore. Io chiedo proprio a lei quello che mi chiedeva prima un radioascoltatore. Quando nell'indicazione del panettone di una veneziana o di altro c'è scritto lievito naturale, non si può intendere lievito di birra, vero? Beh, per fare panettone no, assolutamente, anche se il lievito di birra è un lievito naturale. Però chiaramente è talmente importante il lievito naturale costruito da noi che si può pensare che un lievito naturale che viene messo a lievitare a una temperatura che può andare dai 28 ai 33 gradi, alzando o abbassando la temperatura di 2-3 gradi, il lievito fa un cambiamento totale e dà a noi la possibilità di personalizzare il lievito e fare in modo che il nostro panettone sia completamente diverso uno dall'altro. tenendo poi presente che il lievito naturale è un pezzo unico e irripetibile. Ogni volta che si fa il lievito naturale, il secondo rinfresco, pur con la massima attenzione, già cambia in alcune parti di se stesso. Senta Zoia, cosa deve stare attento un consumatore quando compra un panettone oppure qualsiasi altro diciamo dolce che viene lievitato nelle istruzioni? A che cosa deve fare attenzione? Beh, intanto se è un prodotto ricco non mangiarlo freddo, assolutamente deve sempre farlo, è come stappare una bottiglia di vino e poi lasciarlo che decanti, è uguale il panettone, deve raggiungere una certa temperatura perché l'alta percentuale di burro, essendo fredda, dà la sensazione di avere un prodotto ruvido, mentre invece appena appena il burro prende le sue temperature, gusta tutta la sua fragranza e tutto quello che... Per questo che io insisto di fare il panettone in estate. lo so. Perché io credo che sia il massimo del godimento. Sì, è vero. Poi diceva, cioè, ecco, ad esempio ci sono i conservanti, cioè bisogna stare molto attenti all'uso. Beh, ma noi artigiani assolutamente non sappiamo neanche cosa sono. Ecco, rimanga con noi, sentiamo Vincenzo da Sanremo, radioascoltatore. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a lei, sono Paolini. Senta, io ho avevo circa 50 anni quando ho scoperto una ricetta a due componenti, adesso ce n'ho 78 e ho capito che è proprio questa ricetta che mi fa star bene. Non ho avuto più problemi di salute, anzi ho fatto anche in questi 28 anni quasi 13.000 ore di cammino a piedi, faccio per dire. È il merito di questa ricetta. Qual è questa ricetta? La dia anche noi questa ricetta miracolosa. Dunque. Allora, tra l'altro è perché questa ricetta elimina gli scarti, perché la ricetta elimina il 70% dei scarti che c'è nei formaggi. Ah beh, quindi andiamo un po' fuori zona, andiamo fuori, stiamo parlando di panettone. Comunque velocemente, via, mi dica esattamente di che cosa si tratta. Si tratta che di prendere un kiwi, non tanto maturo, insomma, sì? Sbucciarlo, frullarlo e nel frattempo si fa scaldare un litro di latte fresco intero, anzi per le prime volte è meglio parzialmente scremato. Quando è tiepido si versa questo kiwi frullato, si mescola, caglia subito, una volta cagliato si butta via il siero che è da versi ai maiali e rimane tre etti su un litro di matrietti di questa pasta bianca. È talmente pura e delicata che bisogna mangiarla entro un quarto d'ora. Benissimo, benissimo Vincenzo, grazie della sua dieta miracolosa. Bene, e continuiamo allora a girare, a fare un giro dell'Italia. Ora io voglio anche così, come posso dire, abbiamo profanato il panettone tutto l'anno, ora cerchiamo di profanare anche diciamo degli accostamenti molto particolari. Di solito il panettone si assaggia assieme al moscato, a dei vini con le bolle che non siano spumanti, metodo classico, non siano champagne, mi raccomando, questo no, ma io voglio vedere di andare oltre. Bene, abbiamo con noi uno dei maghi della birra artigianale italiana, abbiamo Teo Musso. Buongiorno Teo. Buongiorno a voi. Senti, io volevo chiederti, ma tu che fai sempre delle combinazioni, delle combine, chiamiamole così, con prodotti molto particolari e le birre, ti sei mai inventato una birra per il panettone? Se devo confessarvi, sì, e non solo, anzi sto lavorando, non per quest'anno, uscirò l'anno prossimo, con un panettone proprio alla birra. Ah, ecco. Quindi proprio, e per quello che riguarda l'abbinamento, beh, sicuramente la prima cosa istintiva che mi verrebbe da dire è che una bella birra di Natale con una, cioè con un caramellato importante, una nota un po', diciamo di cacao, no? Tostata, e con un po' di speziatura sicuramente un bel binomio, no? Con il panettone. Poi personalmente il mio binomio personale è quello della mia linea dei passiti, chiamiamoli delle birre da divano, dei passiti di birra, che col panettone sono veramente uno sballo, cioè proprio... Bene, rimani con noi e io volevo sentire, beh, c'ho tanti sms, innanzitutto ricordo il numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666, ho veramente tantissimi messaggi, usare il panettone al posto dei savoiardi nel tiramisù è eccellente. Ho assaggiato un panettone svizzero di Airolo, buonissimo la differenza, la fa il burro d'Alpe a Milano, invece sono pochissimi a farlo veramente buono. Beh, questa è un'opinione molto, molto personale. Bene, abbiamo il ministro Luca Zaia, allora diciamo gli diamo un diritto di precedenza perché è impegnato su altre cose. Buongiorno ministro. Buongiorno a tutti. Senta, abbiamo sentito diciamo la sua provocazione, chiamiamola così, di non mangiare ananas durante le vacanze, ma assolutamente di preferire prodotti italiani. Io sono completamente d'accordo con lei di usare prodotto made in Italy, però le chiedo subito questo. Ad esempio, uno dei migliori produttori di panettone in Italia prima ci diceva che è impossibile trovare in Italia delle uvette di qualità per poterle utilizzare nel panettone. Quindi ci sono anche molti prodotti italiani ormai che stanno scomparendo oppure che non sono di qualità. Beh, veda, è un altro esempio che potremmo fare, è quello della pasta. La pasta è brand italiano, noi dobbiamo comunque considerare fino in fondo il prodotto italiano, perché poi lì c'è la tecnologia, c'è la sapienza dei nostri maestri pastai, ma dobbiamo anche ricordare che molto spesso il grano che si utilizza è un grano che viene ad esempio dagli Stati Uniti in molti casi, perché è un grano più ricco di glutine e quindi è un grano più forte dei nostri. Varrebbe anche la pena di ricordare a chi vuol fare le polemiche che la pasta in Italia nasce prima della coltivazione del grano, per cui è veramente il prodotto che ci qualifica. Direi, io fra l'altro la voglio ringraziare per questa battaglia che lei sta facendo per il panettone, non rappresenta solo un grande giro d'affari per il Made in Italy, perché sono oltre 240 milioni di euro, ma anche la volontà di dire, insomma, di consumare prodotti che comunque direttamente o indirettamente vengono dalle nostre campagne. Ma io direi, ministro, che bisognerebbe fare anche così, non dico una battaglia, ma suggerire a tutti i produttori il panettone di farlo 365 giorni all'anno, perché è un prodotto straordinario. È un prodotto io lo mangio anche d'estate il panettone, per cui trovo uno che lo mangia sempre, cioè sarò l'unico. No, guardi, che io l'anno scorso ho lanciato una trasmissione proprio per invitare i pasticceri italiani a farlo in agosto, e devo dire che ho avuto una risposta di 200 pasticcerie, e addirittura mi è stato raccontato che nella Svizzera italiana su 90 pasticcerie 20 lo fanno tutto l'anno e vendono di più durante il periodo non di Natale che durante il periodo delle feste. Quindi io credo che questo possa essere uno così degli aspetti del Made in Italy che dovrebbe essere magari supportato. Un'altra cosa le volevo chiedere, se ha ancora tempo, è questa. Difendo da sempre il Made in Italy, difendo da sempre i giacimenti gastronomici, però mi rendo conto che negli ultimi tempi assistiamo molto spesso a prodotti spacciati per tali che poi hanno diciamo latte che arriva da altri paesi, abbiamo carne che arriva da altri paesi e ci troviamo per le mani delle DOP e delle IGP. Ecco, bisognerebbe fare molta attenzione su questo. Ma vede, innanzitutto diciamo che l'export in Made in Italy agroalimentare pesa per noi, cito a memoria ma non sbaglio, 24 miliardi di euro. È un Made in Italy che cresce, perché cresce del 13% in Europa, dell'11% fuori dall'Europa, però sappiamo che c'è un problema, lei giustamente lo ha sottolineato, che su 10 prodotti dichiarati Made in Italy, solo uno è effettivamente Made in Italy. Quindi ci vuole la tolleranza zero, nel senso che chi sbaglia, chi imita, chi si comporta male va punito. Questo lo dobbiamo chiedere a livello comunitario, ma lo dobbiamo anche richiedere all'interno del WTO, perché è inutile che ci vengano tanto a raccontare storie sul mercato globale di questi 153 paesi dell'accordo di Doha. Noi vogliamo garanzie, perché noi rappresentiamo l'agroalimentare d'eccellenza nel mondo, vogliamo essere rispettati, vogliamo che le nostre 174 DOP e IGP siano rispettate fino in fondo. Un esempio per tutti è quello dei formaggi: noi abbiamo il parmigiano reggiano, che viene utilizzato ormai come prodotto civetta da moltissimi nostri competitor, col parmesan e molte altre faccende che noi conosciamo. E quindi questo va a impoverire poi la nostra qualità, ma soprattutto il nostro tessuto produttivo. Sì, infatti il Financial Times pochi giorni fa ha fatto abbastanza ironizzato sul discorso del parmigiano, chiedendo alla comunità per una volta di intervenire a sostegno di un settore in crisi. Quindi credo che questo sia veramente, come posso dire, un'invocazione a salvare certi prodotti. Ma le voglio chiedere un'ultima cosa, ed è questa. Ultimamente sono stato a New York in un negozio di prodotti italiani e quello che veniva lamentato è questo, che meno promozioni di regioni, di province, di comuni, ma più aiuto a far ottenere ai nostri produttori piccoli, diciamo, le autorizzazioni per esportare. Beh, e questa è una partita che noi stiamo affrontando, e mi credo fino in fondo. Ad esempio abbiamo grossi problemi rispetto alla Russia, dove comunque i codici per le esportazioni, rispetto ad esempio ai protocolli fitosanitari, a tutto quello che sono questi protocolli, sono difformi dai nostri, per cui lì dobbiamo comunque intervenire. Lo abbiamo dimostrato con il Brunello di Montalcino rispetto agli Stati Uniti. Questo governo vuole rafforzare anche i rapporti diplomatici con gli stati nel mondo, in modo tale che poi diventino anche dei grandi apripista, buoni rapporti per i nostri produttori. E poi va ricordato comunque che noi siamo in assoluto quelli da sconfiggere a livello internazionale, non ci dobbiamo meravigliare di questo. Noi veramente nell'agroalimentare possiamo fare lezione, e ovviamente tutti quei nuovi stati che si affacciano nel grande mercato europeo, che è 440 milioni di abitanti, o negli altri mercati, cercano comunque di scantonare e di buttare fuori il mercato i nostri prodotti. Quindi noi abbiamo anche tanti nemici con i quali stiamo cercando di tessere anche dei rapporti. Bene, io la ringrazio, la inviterò ad agosto alla festa del panettone, spero che lei venga, così diciamo daremo una spinta ancora a questo prodotto del Made in Italy. Io ho solo un invito, perché trovo un sacco di consumatori che mi chiedono della sicurezza alimentare. Noi abbiamo inaugurato questa stagione da tolleranza zero e daremo dimostrazione prima di fine anno di una grandissima operazione nell'agroalimentare che presenteremo con grandi sequestri. Ma soprattutto voglio dire, dateci una mano consumatori, chiedete prodotti di stagione e prodotti del territorio. E qualcuno mi dice sbagli a chiedere lo sciopero dell'ananas. Siamo i primi produttori mondiali di kiwi, abbiamo le arance, i mandarini, i mandaranci, le mele. Cercate di dare una mano alla nostra agricoltura. Bene, grazie, grazie. Buon Natale. Grazie. Buon Natale. Il gastronauta. Mi scuso con Achille Zoia e Teo Musso per la lunga attesa che le ho lasciate con Mario da Milano, nostro radioascoltatore. Sentiamo Mario da Milano subito. Buongiorno Mario. Bene, Mario si è dileguato, allora volevo chiedere ad Achille Zoia questo. Teo Musso ha parlato di un panettone alla birra. Cosa ne pensa Achille? Ma tutte le innovazioni portano poi a essere un certo fascino, un certo evoluzione nel prodotto. Anch'io 30 anni fa avevo creato il mio panettone, perciò non trovo niente di strano se uno lavora per cercare di staccarsi un po' dal resto della produzione. Bene, grazie ad Achille Zoia, Boutique del Dolce, fa un dolce straordinario che si chiama Paradiso, è veramente, quando si mangia sembra di volare in paradiso. Teo, quindi noi aspettiamo questo panettone, quando ce lo farai assaggiare? Ma sicuramente per il Natale prossimo, ma se riesco faccio un anticipo agosto, visto che vogliamo lanciare il panettone in piena estate. Beh, penso veramente che possa funzionare, perché la birra sicuramente, perché no? Bene, allora ci riproponiamo di tornare in agosto sull'argomento, perché l'abbiamo già fatto l'anno scorso, come ho detto con grande successo, lo rifaremo. Grazie Teo e a presto. Bene, devo leggere tantissimi sms. Ricordo comunque il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Devo dire che ci sono veramente tantissime sms. Una di queste ritorna un po' sul prodotto italiano, dice Made in Italy, ma è proprio vero, uvetta australiana, canditi turchi, farina egiziana. E questo ci dice Luca, non prendiamoci in giro. Bene, ancora un altro radioascoltatore interessante. Ho provato il panettone con la mortadella come da lei consigliato l'anno scorso. Mega, tanti auguri. Bene, bene che è andata bene. Pensavo che andasse male, pensavo di ricevere qualche impropero, magari da qualcuno, qualche imprecazione. Allora, leggiamo ancora. Renato da Milano. Mio nonno apriva il panettone in due parti, con le mani e con un'annusata profonda verificava la qualità. Un gesto tipico come fosse un rito. Bene, aveva ragione nonno Renato, bisogna fare così per capire il prodotto, la qualità del panettone. Bene, abbiamo parlato di Pandoro, così diciamo di sfuggita, però andiamo nel veronese, perché nel veronese non è il panettone che regna, anche se la persona che diciamo stiamo per interpellare produce anche panettone, però si chiama Ofelleria il suo posto, e allora ce lo facciamo spiegare, perché Pandoro Ofella non è l'Ofella di Parona, questa è un'Ofella veronese di Bovolone completamente diversa. Buongiorno Perbellini. Buongiorno. Perbellini, ci spiega cos'è l'Ofella? Allora, l'Ofella è nata dalla tradizione veronese del Nadalin, che è un dolce tipico veronese. L'impasto del Nadalin con uno strato di burro di circa 250 grammi di burro per chilo di pasta è tirato a sfoglia, è venuta fuori l'Ofella in pratica, che messa dentro nello stampo con il Nadalin ha i pinoli sopra, mentre l'Ofella abbiamo messo le mandorle, ossia mio nonno ha messo le mandorle, perché il burro che lascia andare l'impasto del Pandoro, dell'Ofella, cuoce le mandorle dentro nel burro in pratica. E ha tutto un gusto particolare. Senta Perbellini, la differenza tra Pandoro e Ofella? La differenza è pochissima, è solamente nel sistema di impasto. L'impasto del Pandoro va più amalgamato, il burro va più amalgamato, mentre invece nell'Ofella viene più lasciato in superficie, chiamiamo, senza essere amalgamato perfettamente come nel Pandoro. Ecco, abbiamo sentito prima, lei appunto che produce anche panettoni, nel Pandoro va più burro, maggior burro rispetto diciamo alla quantità, diciamo al chilo, al chilogrammo, al chilo, al chilo e mezzo? Sì, nel Pandoro ne va tanto di più come cosa. Ne va tanto di più? Perché nel panettone dopo c'è l'aggiunta di uva e di canditi, vero? Mentre il Pandoro è proprio solo burro. Ho capito, benissimo, rimanga con noi, sentiamo Alex da Milano, buongiorno Alex. Ciao Davide. Io sono panettonista, quindi mi dispiace di dirlo davanti a uno dei più grandi artisti del Pandoro, ma rimango un panettonista. Beh, lui produce anche panettone di grande qualità. Sì, questo lo so, però diciamo geograficamente nasce più sul Pandoro forse. In ogni caso io sono d'accordo sul discorso panettone tutto l'anno, panettone come prodotto in cui valorizzare anche appunto uvette italiane e canditi italiani. La cosa a cui che mi interessava un momentino era quando tu hai buttato lì non soltanto moscato. Io per esempio, per una tradizione familiare, vedo il vino rosso e poi l'ho visto anche con dei vini rossi magari dolci, magari leggermente abboccati, andiamo dai lambruschi amabili, ma anche certi marzemini dolci, anche certe malvasie nere del Piemonte. Il panettone diventa, che non è troppo dolce, che non è così burroso come il Pandoro, diventa veramente sposato bene, a mio avviso. Così la butto lì per sentire cosa ci dicono gli ascoltatori. Ma no? Guarda, questo. Io appunto volevo lanciare anche questo, di accostamenti con il panettone, perché molte volte, cioè nelle case, specialmente a Natale, durante le feste, si vede che siccome rimane la bottiglia aperta inizialmente, oppure si brinda, quindi si stappa sul finale e si finisce per usare secondo me dei prodotti che meriterebbero il tutto pasto, meriterebbero l'aperitivo, a cominciare da appunto dagli spumanti metodo classico, gli champagne ed altro. Quindi io accetto ben volentieri questi suggerimenti, anzi lancio questa idea. Io prima provocatoriamente ho chiamato Teo Musso, che così è un grande degustatore, grande creatore di accostamenti con la birra, creatore di birra, per cui se ci sono accostamenti prego chiamate, perché è molto divertente poter provare questo. Sentiamo Beppino dalla provincia di Pordenone. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Vorrei prima di tutto ricordare Spilimbergo, dove io sono nato, sede della più importante scuola di mosaico d'Europa. Scuola di? Se non si capisce. Mosaico, sì, bene. E poi a conoscere un pasticcere di Trento giovane che si chiama Gigi Merluzzi, che sì, fa dei panettoni straordinari di tante varietà, sia classico che ricoperto di mandorle e glassa, e poi ne fa uno profumato a gianduia per appassionati del cioccolato, tutto lavorato di tua madre. Ecco. Beppino, lei che è un friulano, quindi sicuramente un grande anche così appassionato di vino e buon intenditore. Lei cosa beve con il panettone appunto di questo giovane pasticcere? Ma io porterei volentieri un verduzzo di qualità, oppure un piccolino che può sposarsi bene. Quindi rimane nella degustazione regionale. Bene, la ringrazio Beppino per questa sua segnalazione da Spilimbergo. Ritorno a Perbellini. Perbellini, per quanto riguarda l'Ofella, c'è qualche abbinamento particolare con qualche vino, con qualche prodotto, chiamiamolo liquido, che non sia vino, magari di altro genere, oppure solo ed esclusivamente vino? Ma io preferirei sempre il vino. Un vino dolce, dal moscato al rocciotto, una cosa del genere, ma sempre il vino. Quindi sempre vino, c'è un vino in particolare, uno spumante o d'altro? Ma come spumanti secchi no. Ecco, bene, bene. Come spumante dolce e moscato. Perfetto, perfetto. Grazie a Perbellini, ricordo numero verde 800 24 00 24, però devo continuare a leggere SMS perché ne arrivano anche molto interessanti. Ce n'è uno per il ministro Zaia, non c'è più, e dice: l'olio d'oliva pieno di pesticidi italiano. Bene, io più che questo, caro radioascoltatore, non so chi tu sia, io sull'olio direi forse l'olio taroccato, quello mescolato con altri oli o altre olive, insomma, quindi credo quello magari che porta anche la dicitura Made in Italy. Mi baserei molto, molto su questo, molto su sofisticazioni di questo genere, più che il discorso dei pesticidi. Certo, i pesticidi sono importantissimi, non importanti, però anche il taroccamento lo è altrettanto. Il gastronauta di Davide Paolini. Eccoci di nuovo a parlare di panettone e parlare anche di Made in Italy. Io voglio sentire da un radioascoltatore, Giorgio da Bergamo innanzitutto. Buongiorno Giorgio. Buongiorno Davide. Volevo dire questo: al di là della qualità eccelsa per la produzione di panettone, secondo lei trova giustificazione un prezzo che va al di là di 60 euro il chilogrammo? 60 cioè, euro? Ci mettono oro, secondo lei? Beh, 60 euro mi sembra veramente un prezzo fuori dalla norma. Io non devo dire che non ho mai visto un panettone. Beh, è evidente che se poi lo addobbano, non so panettone. Ma nudo e crudo. Quindi, nudo e crudo. Beh, io devo dire. Ho sentito che un grande produttore, cioè un grande produttore nel senso di grande qualità. Sì. Produce panettoni a prezzi a questo livello, a me sembra veramente ingiustificato. Beh, io credo che sia veramente ingiustificato chiunque esso sia. Grazie a Giorgio da Bergamo per questa segnalazione. Se ci sono dei radioascoltatori che vogliono segnalare dei prezzi così fuori dalla norma, prego di farlo. Ma ora andiamo a Firenze, andiamo in una gelateria addirittura, chiederete perché. Bene, un mesetto fa, forse più, sono entrato in una gelateria fiorentina che si chiama Carapina. Ebbene, ho visto tra le indicazioni delle specialità gelato al panettone, e ovviamente essendo goloso di panettone l'ho assaggiato. L'ho trovato davvero eccellente, mi sono chiesto come mai, ma ora lo chiedo al proprietario di questa gelateria che si chiama Simone Bonini. Buongiorno Bonini. Buongiorno Paolini. Buongiorno. Ma come mai lei le è venuta in testa l'idea di fare il gelato al panettone? Ma perché, niente, come per quando è nata Carapina, cioè 6 mesi fa circa, ci siamo chiesti cosa potesse mancare in una gelateria, e abbiamo pensato... che abbiamo visto soprattutto che in altre situazioni veniva proposto gusti un po' particolari, senza pensare a determinate situazioni, e quindi noi siamo ispirati per la frutta alla stagione, e quindi mi sembra mai come adesso particolare. Ho sentito prima il ministro che faceva appello a rispettare le stagioni eccetera, e quindi adesso trova da noi arancia, mandarino, kiwi italiani. Per i panettoni siamo ispirati ovviamente alla tradizione. Ecco, va forte in questo periodo? Sì, no, andava già a ottobre, devo dire, nei nostri clienti, nella nostra clientela, è piaciuto perché la nostra crema particolare, abbiamo aggiunto, diciamo, facendo sciogliere dei biscotti, che è un po' il nostro segreto, e poi in uscita dalla mantecazione aggiungiamo frutta, cedro, scorze di arancia. Bene, i contenuti tipici del panettone, insomma. Allora, Bonini, mi raccomando, continui a produrlo, specialmente in estate, quando faremo le feste del panettone. No, assolutamente, noi aggiungiamo sempre gusti nuovi, ma via via che li abbiamo inseriti nella nostra, diciamo così, filiera, ma come adesso si usa dire questa parola, e poi torna sempre a trovarci nei nostri gusti, e quindi sicuramente Bene. Lo troverà anche in estate. Grazie a Bonini della gelateria Carapina di Firenze. Ora andiamo nelle vicinanze di Padova, e poi andremo anche a Padova. Andiamo nelle vicinanze di Padova e andiamo dagli Alaimo, da Raffaele Alaimo del ristorante Le Calandre, ma anche di una grande tradizione di pasticceria della mamma, poi proseguita anche dai figli. Ma buongiorno Raffaele. Carissimo Davide, ciao. Allora, io invece, cioè, voi producete degli ottimi panettoni, ma da te, che sei un grande diciamo esperto di vino, sommelier, provetto, voglio chiedere cosa consigli da abbinare al panettone. Ci arrivo subito. Prima mi piace salutare da parte di mia mamma Zoia. Bene. Che è intervenuto all'inizio trasmissione ed è stato il primo maestro del lievito madre a mia madre e poi di conseguenza a Massimiliano. Noi facciamo i panettoni secondo la sua scuola, quindi senza nessun conservante, senza monograssi idrogenati, eccetera. Mi capita di mangiarlo molto spesso, quindi appena sfornato, perché come diceva lui, i produttori artigianali non conoscono i conservanti, e quindi caldo. E l'abbinamento caldo è molto più interessante che con un panettone freddo a temperatura ambiente. Su questo dissento su quanto tu hai detto all'inizio, dicendo mai champagne, mai Franciacorta. No, io ho detto mai spumante metodo classico italiano. Io non ho detto mai spumante metodo classico italiano. Sì, chiedo scusa. Perché io ormai li associo, sì, data la quantità di produzione, sì, assorbito da quell'area geografica. Comunque, io mi diverto moltissimo con degli champagne vecchi, di almeno 30 anni, che quindi hanno delle ossidazioni e delle maderizzazioni interessanti. Diventano vini dolci. Quasi dolci, poi c'hanno le ossidazioni, ed è una cosa che è veramente divertente e piacevole. Se no, una cosa che esula dai classici moscati, dalla Malvasia dolce emiliana, eccetera, i Madeira, e perché no i nostri Marsala siciliani. Bene, Marsala siciliani, anche qui bisogna stare attenti che non sia la versione estremamente secca, perché sennò non va bene, deve essere un pochino morbido, e se è vecchio è una goduria. Quella Malvasia emiliana è fantastica, è la Malvasia dolce di Camillo Donati. Bene. Ma il bello di questo vino è che ovviamente è quasi come i moscati, con una gradazione alcolica molto bassa, che quindi consente una beva un po' più abbondante degli altri vini, ma non è un dolce stucchevole, poi ha una fermentazione naturale, cioè ha lieviti per conto suo, quindi abbiamo il lievito madre del panettone e i lieviti della Malvasia, che quasi assomiglia a una birra non filtrata, è una cosa fantastica. Bene Raffaele, io ti ringrazio di questa tua testimonianza, e ora andiamo a Padova, andiamo sempre a Padova. Andiamo nel carcere di Padova, è nota questa mia così predilezione per il panettone dei carcerati di Padova, della cooperativa Giotto, e abbiamo con noi Nicola Boscoletto, che è presidente di questa cooperativa. Buongiorno Nicola. Carissimo Davide, ciao, e grazie di averci contattato. Come va quest'anno i panettoni nel carcere? Ma guarda, quest'anno è stato tutto un crescendo, a partire dalla splendida riuscita della tua idea del panettone a Ferragosto, perché non so se ti ho più dato i dati, ma a Ferragosto al meeting di Rimini abbiamo distribuito, venduto e fatto assaggiare il panettone a 60.000 persone. Ah. E abbiamo prodotto 5 tonnellate di panettone. Bene, un bellissimo risultato, devo dire. Non so se questo dato, insomma, ti renda felice del fatto che finalmente questa tua idea ha bucato. Ecco, volevo dirti solo questo, che tu forse non hai assistito così al resto della trasmissione, ma il ministro Luca Zaia ha affermato di essere un grande appassionato del panettone in agosto, quindi credo che in agosto, se ci sarà una festa, dovremo invitare anche lui. Rimani con noi, sentiamo Luca dalla provincia di Verona. Buongiorno Luca. Sì, pronto, buongiorno. Ci dica. No, niente, appunto, sto passando dalla provincia di Verona, sono proprio di fianco ai due grossi produttori di panettone e pandoro, c'è un profumo incredibile. Volevo dare un suggerimento, io invece risiedo a Milano, di una pasticceria nota a Milano, vicino a una famosa scuola privata, che fa un panettone all'ananas, mi scusi per il ministro Zaia, ma è veramente fantastico, e niente, volevo suggerire questo. Ma è vicino alla scuola privata, vuol dire che lei accompagna magari i figli e la mattina si fa una fetta di panettone, così, no? No, beh, asporto l'intero contenuto. Ho capito, sono va bene. Sono un fan dei panettoni e penso che vadano veramente tutelati, perché è una ricchezza che è un bene italiano. Bene, l'ultima battuta, Nicola Boscoletto. Bene, allora speriamo che anche questo Natale vada bene con i panettoni, con il panettone dei carcerati, insomma, Nicola. Sì, io intanto voglio salutare, io e tutti i miei amici, il ministro Zaia. Non c'è più però con noi. Ma io lo saluto comunque e assicurarvi che forse proprio al 100% il nostro panettone è un made in Italy. Bene. Perché noi non è possibile per noi dentro il carcere poter pensare di cercare scorciatoie, eccetera. E poi che sicuramente ad agosto non gli faremo mancare il panettone. Bene. E sta andando benissimo. Bene. Do solo un dato, che noi siamo passati dai 13.000 panettoni dell'anno scorso ai 30.000 di quest'anno, con la novità del panettone di 5 kg, numerato e seriato. E c'è una grossa richiesta dall'estero. Bene Nicola, io ti saluto perché purtroppo devo chiudere la trasmissione e devo innanzitutto augurare buon Natale ai nostri radioascoltatori, tutti, indistintamente, anche quelli critici ovviamente, e quindi vi auguro buon Natale, vi auguro una grande festa, un grande panettone. Io vi do appuntamento alle 12.15 con il Wine Bar e ogni giorno con le pillole, poi anche il giorno di Natale cercherò di intrattenervi magari prima di pranzo. Buon Natale dal vostro Davide Paolini.